È un classico. Parleremo e penserai che è antipatico. Ma io ho una guerra dentro che mi ha reso forse un po' più apatico. E che vivo a tratti un po' lì dove capito. Non ci siamo incontrati eppure la città era vuota. Sarà che il destino vuole metterci alla prova. Perché una come te con uno come me si trova. Che ho qua nel bagagliaio e sogni nella tuta nuova. Noi due insieme siamo il panico, adrenalina nello stomaco. Non c'è nemmeno un motivo per starmi vicino eppure cadi con me. E dammi un bacio che non finirà mai più. Chi sono io dipende da se ci sei tu. Forza facciamo casino, svegliamo il vicino. Odierà tutti e due. Che sia in questa o nella prossima, per me vita solo se sei qua. Basta una vita per te raccontare che la gamma fatta insieme. Tutto quello che tu mi saputerà era quello che voleva. Noi siamo una storia che vedi in dei film e che pensa che non esiste. E non mi pensano a chi li problema. Non ci siamo incontrati e mezza vince sta nessuna. Forza vita sta io quando ci vorrei spartuta. Perché uno come a te mi serve per mi fa sta buona. La facisse pazzi però soltanto per st'amore. Noi due insieme siamo il panico, adrenalina nello stomaco. Non c'è nemmeno motivo per starmi vicino eppure cadi con me. E dammi un bacio che non finirà mai più. Chi sono io dipende da se ci sei tu. Forza facciamo casino, svegliamo il vicino. Odierà tutti e due. Che sia in questa o nella prossima, per me vita solo se sei qua.